24 mattino. Irene Zerbini al microfono, 16 minuti trascorsi dopo le 8. Perché viaggiare in aereo è diventato un problema, anzi la garanzia di avere problemi? Con noi ci sarà Alessandro Ceci, il cui bagaglio è stato smarrito il 25 luglio all'aeroporto di Fiumicino e dopo 18 giorni non gli è ancora stato restituito. Vive a Londra da 5 anni, dove lavora come consulente finanziario. Era tornato in Italia per una vacanza a Ponza e insieme a lui parleremo con un professore presso il Dipartimento di Economia della Loughborough University, economia del turismo, del decadimento della qualità del viaggio aereo. Questo in 24 mattina. Prima però ci siamo chiesti, gli italiani sono bianchi? È una domanda che ci è stata chiesta in passato e anche nel passato più recente. Per discuterne abbiamo invitato l'onorevole Matteo Salvini. Buongiorno. No. Pronto? Eccomi. Buongiorno, eurodeputato. E con noi anche da Toronto, Canada, il professore di letteratura italiana contemporanea alla York University, John Picchione. Buongiorno, professore. Buongiorno. E abbiamo Nelson Moe, un professore di storia e cultura italiana alla Columbia University, per la precisione al Barnard College della Columbia University. Nelson, buongiorno. Buongiorno. E lei ha scritto questo paradiso abitato da diavoli, identità nazionale, immagini del mezzogiorno. E racconta tante cose interessanti, non così ovvie naturalmente per chi non si è mai affacciato su queste riflessioni, ma che sarebbe bene condividere un po' con tutti. Per esempio, gli italiani sono bianchi, noi lo davamo per scontato, cioè lo diamo per scontato in Italia. Il mio studio su queste questioni è partito dalla domanda come si è formata questa idea di un mezzogiorno diverso, inferiore al sud, e ho visto a proposito della questione della razza, della diversità razziale, etnica, ho visto che c'è dall'unità in poi questa idea che prende forma, e proprio dal primo momento di unità sia una dichiarazione molto significativa, eloquente, dalla parte di un luogotenente di Cavour nel sud, nell'autunno di 1860, che dice: arriva le guardie intorno questo nuovo territorio della nazione, per dire: altro che Italia, questa è Africa. E quindi già all'inizio gli uomini politici, alcuni, vedevano il sud come problema. Io, per raccontare questa storia molto brevemente, vedo che c'è stata sempre dalla parte delle elite italiane questa paura di essere vista, la nazione, di essere vista come un sud in toto contro un nord europeo. Quindi un'ansia molto forte, una paura di essere... E quindi questo voler prendere le distanze. Ma tornando alla sua esperienza di americano, e lei ha vissuto a lungo a Napoli, per quello padroneggia bene l'italiano, ma insegna alla Columbia University, e queste discriminazioni verso gli italiani hanno portato perfino alla categorizzazione, diciamo così, all'etichettatura degli italiani come non bianchi. Sì, ecco, diciamo c'è, se vogliamo, un po' una trasposizione tra il quadro che avevo appena descritto di un nord europeo che ha paura di un sud, se vogliamo, africano, diverso, anche mediterraneo, che negli Stati Uniti la situazione in certi sensi è simile, in quanto c'è un gruppo WASP, cioè bianchi, anglosassoni. E protestanti? Sì, e protestanti, sì. Perché la discriminazione è molto forte verso i cattolici in generale. Appunto. È stata. E quindi, molto brevemente, questi americani appena arrivati anche dall'Europa settentrionale, dall'Inghilterra, vedono l'arrivo alla fine dell'Ottocento, parliamo degli anni 90 fino alla Prima Guerra Mondiale, in cui arrivano più o meno 4 milioni di italiani, soprattutto del Mezzogiorno. Quindi c'è questa percezione molto forte di una diversità di questi italiani, soprattutto del sud, che vengono visti come minaccia, come pericolo per la nazione, ed è uno scontro molto forte. E poi andando avanti nel Novecento diminuisce molto lentamente questa idea degli italiani come minaccia, anche se tenendo una certa forza che si vede molto chiaramente nel cinema, arrivando proprio al Padrino. E il pregiudizio sugli italiani è durissimo a morire, anche adesso che fanno parte di un establishment potente, temuto. Per esempio, adesso insegnano anche nelle università. John Picchione da Toronto, lei è titolare di una cattedra. È giusto. E su queste riflessioni, su questi pregiudizi verso gli italiani, lei cosa ha osservato dal suo osservatorio nordamericano? Beh, innanzitutto devo dire che la situazione in Canada oggi è molto diversa rispetto a quella degli anni 50, degli anni 60 o anche nei primi anni 70. Oggi il Canada è diventato il paese del futuro, il Canada è un paese in cui tutte le identità etniche sono riconosciute anche a livello politico dalla nostra cultura del multiculturalismo. Ma ovviamente negli anni del dopoguerra, con la grande ondata dell'emigrazione italiana, le discriminazioni nei confronti degli italiani, dei nuovi arrivati, erano molto forti. Ovviamente queste discriminazioni partivano da svantaggi di natura economica e si riversavano poi in stereotipi e generalizzazioni. In quegli anni gli italiani erano ritratti come gente sporca, poco affidabile, che puzzava di aglio. Oggi ovviamente la cucina italiana è parte integrante della cultura canadese, quindi le cose... Anzi, la più rinomata forse. Senta, esatto. Ma erano solo i meridionali o anche i settentrionali a essere oggetto di queste discriminazioni? Ecco, sì, questa è una domanda molto interessante. No, ovviamente il Canada non faceva nessuna... Il canadese che nutriva questi stereotipi nei confronti degli italiani non faceva distinzione. Ovviamente qui in Canada oggi c'è oltre un milione di italiani, insomma, in Canada, solo a Toronto oltre 600.000. C'erano molti veneti, molti friulani, molti anche dal nord, non soltanto dal meridione. Ovviamente il problema c'è spesso il problema parte da scontri, insomma, che possono essere da gente che proviene da contesti agricoli mentre viene messo in un contesto urbano industrializzato, per cui le differenze di questo genere venivano percepite come differenze etniche. Insomma, il discorso etnico non è un discorso che può un discorso che può valere, un discorso serio sulle identità dell'altro. A questo punto vorrei parlare anche con l'onorevole Matteo Salvini. Senta, onorevole, ha sentito questi pezzi, così, questi brani della nostra storia passata, e perché soffriamo di amnesia? Perché non se ne parla in Italia? No, se ne parla a volte in maniera un po' distorta, nel senso che qualcuno vorrebbe cancellare delle differenze che esistono. Io non dico, non mi permetto di dire se ci sia un meglio o ci sia un peggio, ci sono delle differenze. A quali differenze si riferisce? Ma differenze storiche, sociali, culturali, gastronomiche, musicali, linguistiche. L'Italia è bella perché sono almeno 20 paesi diversi che per stare insieme, secondo me, dovranno riconoscere queste differenze. Nella differenza c'è il bello, quindi a volte qualcuno nel nome dell'unità a tutti i costi ha cercato di cancellarle, queste differenze, che anche all'estero sono valorizzate, perché ogni volta che vado all'estero per diletto o per lavoro, dalla Cina all'Australia, agli Stati Uniti, allo stesso Canada, mi chiedono italiano di dove. italiano di Milano, e quindi c'è un certo tipo di approccio, c'è un certo tipo di interesse che sarebbe diverso e altrettanto interessante se provenissi da un'altra parte, però non c'è un'Italia, ci sono tante Italie e questo qualcuno ogni tanto se lo dimentica. E dal punto di vista culturale, secondo lei, il contributo degli autori del Sud, per esempio, stiamo parlando in campo cinematografico, un altro aspetto che è stato analizzato dal nostro professore John Moe, può far brillare di luce riflessa anche noi italiani settentrionali o quando c'è questa creatività premiata nel mondo che proviene dal Sud, noi dovremmo in qualche modo tenere le distanze e dire no, attenzione, noi non possiamo raccogliere questi applausi perché non provengono dalla stessa etnia, dalla stessa parte d'Italia. Visto che facciamo tutte queste differenze, forse dovremmo anche in caso di aspetti e giudizi positivi continuare a mantenere queste distinzioni. Non ci mancherebbe altro, tutto quello che è positivo, che porta lustro e soldi e buon nome dell'Italia nel mondo va apprezzato, quindi se arriva il film da Lampedusa piuttosto che da Bolzano mi interessa poco. Ecco, raccogliendo la provocazione, magari mi piacerebbe che alla televisione, invece di 18 festival della canzone napoletana che ci sono sicuramente lungo l'arco dell'anno, magari ogni tanto ci fosse anche un festival della canzone in lingua veneta, emiliana, lombarda o piemontese, visto che mi sembra che televisivamente parlando ci sia un'assoluta sproporzione. Detto questo, qualunque evento culturale, sociale o economico serva a cancellare quegli stereotipi è il benvenuto. Nelson Moe, ha sentito la proposta dell'onorevole Matteo Salvini? Ecco, io certamente posso entrare nel merito di programmazione, diciamo, televisiva in Italia, veramente non è il mio mestiere, ma è un'osservazione interessante di come vengono rappresentati questi diversi pezzi dell'Italia e quali vengono valorizzati. Posso solo dire che i motivi della valorizzazione di una cultura, di una fase o di una cultura, non so, il neorealismo, sono così molto varie, non è possibile semplicemente poi dire che la canzone napoletana è programmata tanto perché questo, diciamo, è certamente una tradizione fortissima e bisogna dire non per sopravvalutare il Sud, ma è forse la tradizione musicale popolare più riconosciuta nel mondo, che ha avuto un'influenza maggiore. Voglio solo aggiungere che in questa discussione che abbiamo, anche più in genere, mi sembra che è meglio vedere le culture sempre come pezzi in relazione ad altri pezzi, altre culture. Quindi va bene, si può dire la cultura di quella città in Italia, di quella regione, ma non vengono valorizzati semplicemente come quella cosa in sé da solo. Le culture sono sempre interrelazionali e anche da lì c'è l'arricchimento, lo scambio, e questa è stata anche la storia dell'Italia. Quindi parlare per esempio di un Visconti è un bel caso, perché milanese, però non esiste tutto il corpus, le opere di Visconti senza questo rapporto con il Sud, che non è solo che lui scende in Sicilia a girare, non so, la terrazzina, ma che lui nella vita ha questa doppia identità, se vogliamo, e le sue opere, i suoi film, che sono così belli, partono da questa interazione tra nord e sud, se vogliamo. Spero che sia chiaro. È chiarissimo questo aspetto. 33 minuti dopo le 8 e il pensiero va all'episodio raccontato da Gian Antonio Stella nell'Orda, quando gli albanesi eravamo noi, dell'italiano accusato di aver contaminato la razza perché ha avuto delle relazioni sessuali con una donna americana, con una donna bianca, e che invece viene assolto perché in realtà queste le motivazioni della sentenza: negli Stati Uniti, in realtà, essendo italiano, non si può considerare, non si può considerare un uomo bianco, e di conseguenza c'era questa relazione sessuale tra una persona nera e una persona italiana, e tutti e due vengono considerati sullo stesso piano, non esiste il reato. A questo punto gli italiani sono bianchi, ci si è chiesto, e ci chiede l'ascoltatore, ma in Canada ci chiamano ancora WAP? Professor Picchione, in Canada come ci chiamano? Come veniamo chiamati? Io direi di no, insomma ci potrebbe anche essere qualche caso molto sporadico, ma oggi gli italiani sono completamente integrati nella vita politica e culturale di questo paese, ma devo sottolineare che il Canada si è sforzato negli ultimi, diciamo, soprattutto negli ultimi 20-30 anni a promuovere una cultura dell'inclusività, una cultura che riconosce insomma le identità delle singole etnie che possono convivere pacificamente. Quindi molto è cambiato rispetto al dopoguerra, agli anni 50, agli anni 60. Devo dire da questo punto di vista che alcuni discorsi culturali o politici oggi in Italia insomma sono un po' preoccupanti, perché penso che ci siano due pesi e due misure. Da un lato l'Italia ha una politica insomma per quanto riguarda gli emigrati italiani all'estero, gli italiani all'estero, e ne siamo oltre 60 milioni, vorrei ricordare ai vostri ascoltatori che insomma anche il governo italiano incoraggia la cultura, infatti l'italiano è insegnato in Canada nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, all'università, abbiamo dei programmi. Certo, dei ed programmi è una lingua di emigrati. Lingua e letteratura. È una lingua di emigrati, ci sono questi programmi finanziati dal governo italiano in concorso col governo canadese, ed è una lingua, non è certo una lingua ufficiale, anche se per esempio a Toronto è la terza lingua, dopo l'inglese e il mandarino. Non solo, qui a Toronto si stampa un giornale italiano, la RAI trasmette, insomma oggi tra l'altro insomma quello che bisogna dire è che le nuove tecnologie hanno spazzato via, diciamo, le identità molto forti. Le nuove tecnologie, l'internet eccetera, sta creando ha rotto con i confini nazionali, le transnazionali insomma creano delle immagini che vanno oltre le identità insomma locali, per cui oggi in Italia direi che c'è un'ossessione per quanto riguarda gli immigrati in Italia, e quindi si fa un discorso diverso, l'immigrato viene visto spesso come una minaccia alle identità locali, quindi dimenticando ovviamente da questo punto di vista, direi che molti italiani, alcuni italiani, ovviamente non si può parlare degli italiani in generale, ogni cultura è sempre conflittuale, ha sempre delle... veniamo al punto. Dimenticando, professore? Dimenticando che gli stessi italiani all'estero hanno sofferto discriminazione e razzismo per molti decenni. Matteo Salvini, senta, visto che il problema su cui punta la Lega, per esempio, è un problema spesso legato alla sicurezza, immigrazione e sicurezza, visto che per esempio in Canada con questa politica di inclusione il tasso di criminalità è bassissimo rispetto ai vicini di casa, rispetto agli Stati Uniti, e questo include naturalmente anche gli emigranti, che costituiscono a Toronto per esempio il 51% della popolazione, sono nati all'estero, ma con questa politica di inclusione si ottiene un comportamento virtuoso, perché colui che si sente accettato in qualche modo restituisce al paese. Non c'è nulla da imparare, secondo la Lega, dal Canada, che tra l'altro è un paese federalista, onorevole. Fuori dubbio, il nostro modello sono il Canada e l'Australia, dove l'immigrazione regolare, c'è questa piccolissima distinzione da fare che è fondamentale, fra l'immigrazione regolare, che in Australia ad esempio viene fatta su richiesta, in base alle nazionalità, in base alle lauree, in base alle professioni, e l'immigrazione irregolare. Ecco, Secondo me è inaccettabile giustificare con il passato di emigrazione italiana il fatto che l'Italia dovrebbe subire un'immigrazione clandestina di qualche milione di persone. Sono due fenomeni che non c'entrano nulla. Infatti nessuno lo auspica, onorevole, nessuno lo auspica. Non posso intervenire su questo aspetto. Ovviamente le mie osservazioni non riguardavano gli immigrati che entrano in un paese illegalmente. Professore, facciamo finire Matteo Salvini. Una volta che l'immigrato arriva in un paese, deve trovare un terreno favorevole per sviluppare, insomma, le proprie attività, per inserirsi le proprie capacità, in questa società e per contribuire in questa società. Noi italiani abbiamo attraversato proprio tutte queste peripezie e oggi devo dire che il Canada è il paese del futuro, mentre ogni tanto, per quanto riguarda alcuni discorsi in Italia, mentre mi sembra che l'Italia sia il paese del passato, per cui sta perdendo molto terreno. Da questo punto di vista direi che l'Italia dovrebbe valorizzare la presenza dell'immigrato. Questi giorni per me è stato molto preoccupante sentire ad esempio che in alcune scuole, visto che c'erano alcuni ragazzi di immigrati, alcune famiglie italiane volevano mandare i propri figli in un'altra scuola, ma questo è orribile. Cioè professore, aspetti, abbiamo sentito il suo tempo, sentiamo Matteo Salvini. Se invece che a Toronto viene ospite a casa mia a Milano per una settimana, andiamo in una scuola nel quartiere San Siro dove su 129 ragazzi 126 sono stranieri con 28 lingue diverse, con nessuna possibilità da parte degli insegnanti di farsi capire. Quindi un conto è leggere quello che accade da qualche migliaio di chilometri di distanza, un conto è venire a vedere cosa accade in alcune scuole di Milano, di Brescia, devo ricordare e di che io sono in Italia ogni anno per 3-4 numeri. Le distanze sono molto relative, vorrei ricordare. Gli italiani del Canada viaggiano. Il mondo si è rimpicciolito, faccio prima io arrivare a Milano che lei ad arrivare in Sicilia. Guardi, onorevole Salvini, voleva imparare, il Canada e l'Australia sono un modello, però in Canada per esempio si ottiene la cittadinanza una volta entrati da regolari dopo 2 anni di permanenza sul territorio. Chiunque nasce in Canada è canadese, a prescindere dalla nazionalità dei genitori, cioè ci sono anche questi aspetti che poi rendono l'integrazione più agevole. Sicuramente, perché è un paese più abituato a far rispettare le leggi che ci sono rispetto all'Italia. Quindi l'immigrazione è un problema di numeri. Io sono stato in Australia poco tempo fa e lì la presenza di clandestini è di 2.000 persone. 2.000 clandestini a Milano ci sono nel quartiere dove abito io. Quindi è una questione di regole, di saper far rispettare le regole. L'Italia ha conosciuto un fenomeno immigratorio negli ultimi 15 anni, non si è mai posta il problema in precedenza, mentre in Canada e negli Stati Uniti è un secolo almeno che c'è questo fenomeno. Quindi l'Italia non è ancora pronta ad affrontare immigrazioni che in alcuni tratti delle nostre città arrivano ad assumere i tratti dell'occupazione del territorio. Il mio sogno è che si arrivi al livello canadese. Oggi non siamo pronti e a mio personalissimo avviso non aiuta queste politiche di inclusione e di immigrazione chi vorrebbe che l'Italia si trasformasse in quello che oggi non può essere, perché la questione numerica oggi in Italia è la prima da valutare. Direi qualcosa. Professor Mo. Sì, ma due cose, molto brevemente. Uno è che certe cose che l'onorevole Salvini dice mi sembrano rassicuranti, la valorizzazione dell'emigrato, ma mi sembra che nel discorso nazionale politico c'è spesso invece un discorso di rigetto, di paura, capisco, e quindi c'è un discorso più specificamente politico di leggi istituzionali, ma globalmente, culturalmente mi sembra che quando leggo i giornali italiani io leggo più questa visione negativa di paura, quindi questo è un punto. Sì, gli immigrati sono come problema di sicurezza. Sì. Invece si vede storicamente, secondo me ci sono due caratteristiche delle fasi immigratorie. Uno è che la fase iniziale è molto difficile, molto conflittuale, come è stata negli Stati Uniti. Sempre. E poi si capisce quasi sempre. Poi si vede passando col tempo che c'è il contributo a tanti livelli degli immigrati molto forte, che come negli Stati Uniti ha arricchito tanto la cultura del paese, e poi una cultura che è diventata una cultura, cioè se pensiamo al Padrino, questo è un film americano. Americanissimo. Però con il contributo della cultura culturale italiana, che Coppola portava, chiaro, chiarissimo. Che diventa una quindi i grandi Oscar, i grandi Nobel che un giorno l'Italia avrà, probabilmente avranno anche un cognome cinese o arabo o rumeno, chi lo sa? Sicuramente. Secondo punto brevissimo, mio figlio che frequenta un liceo negli Stati Uniti che molto famoso, il Bronx Science, che è famoso proprio per i tanti ebrei che si sono diplomati lì. Infatti ci sono 7 premi Nobel, soprattutto ebrei, da questo liceo. Allora adesso mio figlio, che è bianco, diciamo, bianco norvegese, lui sta lì, è in una minoranza, cioè il 70% degli studenti sono o cinesi o dalla Russia, dalla Cina. E veramente, cioè, quando lei parla della zona di San Siro, della quasi occupazione del territorio, si potrebbe dire di questo liceo che è stato occupato da questi. Invece nella nostra città si capisce che questa è la nuova onda di immigrati che diventerà. È una risorsa e una ricchezza. Allora, se posso Salvini, dire, Salvini. Questa percezione c'era anche in Canada, che le scuole erano invase dagli italiani. Ma le questo cose il professore sono state risolte diversamente, cioè addirittura nelle scuole canadesi degli anni 60-70 si insegnava ai ragazzi che erano appena arrivati dall'Italia, ad esempio la matematica, in italiano, in modo da permettere un periodo di transizione. Cioè ogni volta che c'è un discorso sulle migrazioni in Italia è esattamente quello che costantemente la clandestinità. Questo è un altro problema, sono problemi a parte, questi sono problemi che l'Italia deve affrontare per rendere il proprio territorio, insomma, non oggetto, insomma, di immigrati clandestini. Nessuno parla a favore degli immigrati clandestini, ma quando parliamo di una politica nei confronti dell'immigrazione, io direi che a livello politico alcune percezioni di stereotipi sono legittimate da discorsi politici. Grazie, sono professore. A livello di leggi. Professore, dobbiamo interromperci per un attimo. John Picchione, professore di letteratura italiana contemporanea alla York University. La storia della discriminazione verso gli italiani è oggetto di corsi di studio anche alla Columbia University. Siamo partiti da questo dato di fatto, non è un'opinione, per dibattere su cosa si potrebbe importare dalla nostra storia. E abbiamo disturbato un professore che insegna a Toronto, alla York University, e un professore della Columbia University. Con noi un esponente della Lega, l'eurodeputato Matteo Salvini. Ha sentito gli stimoli che le sono stati posti proprio su modelli che abbiamo vissuto noi come italiani. Dunque, dare agli immigrati la possibilità di integrarsi appena si entra in Canada. Ci sono i corsi di lingua inglese, addirittura ci sono i babysitter per gli immigrati che abbiano figli, così che possano seguire i corsi di lingua inglese. Ci sono i tribunali per i diritti dell'uomo in generale, per cui non è possibile la discriminazione, non è possibile, quando si parla anche di un crimine, negli organi di stampa, in una testata, in un telegiornale, indicare la nazione di provenienza anche di colui o colei che ha commesso questo crimine. Ci sono una serie di tutele dell'immigrato a cui coincidono certo anche dei doveri, il dovere di rispetto della legge, il dovere di darsi da fare nella società per contribuire, ma c'è una sorta di spinta verso l'impegno a rendere in generale la società migliore. Anche nelle scuole tutti i bambini sono valorizzati proprio per la seconda, per la terza lingua che portano e che viene ricordata dall'insegnante a livello culturale, a livello di cibo, a livello di insegnamento, addirittura con finanziamenti dello Stato. Si insegna l'italiano, ma si insegna anche il portoghese, l'arabo, il farsi, il polacco, insomma tutte le lingue che possono essere quelle dei padri o dei nonni di coloro che oggi sono i canadesi. Salvini, le sue conclusioni. Questo va benissimo, tanto che la città dove gli immigrati sono meglio inseriti in Italia, secondo l'ultima analisi del Sole 24 Ore, è proprio Treviso, che è da 15 anni amministrata dalla Lega Nord, forse perché qualche stereotipo c'è anche sull'immagine che all'estero si ha delle politiche della Lega nei confronti dell'integrazione, dove gli immigrati meglio si sono inseriti nel tessuto sociale e economico è in una città del nord-est amministrata da 15 anni dalla Lega. Mi piacerebbe che la stessa accoglienza, vi ricordate gli ascoltatori e voi vi ricorderete le polemiche quando la Lega qualche mese fa propose le classi ponte, ovvero sia di insegnare la lingua italiana per i 2, 3, 4 mesi iniziali ai bimbi stranieri che altrimenti non avrebbero capito niente una volta che si fossero trovati in classe. Bene, fummo accusati del razzismo più becero e invece è una realtà in tantissimi stati europei, quindi mi auguro che si arrivi a quello e poi... Mi dispiace correggerla, onorevole, vengo dal Canada, non ci sono classi ponte per insegnare l'inglese, i bambini vengono inseriti immediatamente, sono i genitori a cui che invece vengono pagati con un assegno sociale per imparare l'inglese, i bambini dall'inizio e immediatamente vengono inseriti in classi normali. Comunque è una discussione che offre diversi stimoli e osservazioni, sarebbe bello continuarla, forse lo faremo un'altra volta. Per ora grazie ai nostri ospiti, al professor Nelson Mo, all'onorevole Matteo Salvini e a John Picchione. In questo momento le notizie in primo piano, notizie che sono sui giornali forse e che invece approfondiremo anche nel corso dei notiziari. I fatti del giorno: il TAR del Lazio ha deciso che la frequenza dell'ora di religione cattolica non concorrerà ad attribuire crediti scolastici per la maturità, i docenti di religione non parteciperanno alle deliberazioni del consiglio di classe e ancora si discute di INSE. È stato raggiunto l'accordo, gli operai scendono dalla gru al termine di una seconda interminabile giornata di trattative. L'INSE di Milano è stata acquistata o verrà acquistata quanto prima dalla cordata guidata dalla Camozzi di Brescia. Sdegno ha provocato la condanna in tutto il mondo di Aung San, Suu Kyi, premio Nobel per la pace, è stata condannata ieri a 18 mesi di arresti domiciliari per violazione delle norme di detenzione. È la leader dell'opposizione birmana e anche il presidente americano Barack Obama ha espresso la propria indignazione. Noi invece parliamo di viaggi in questo momento a 24 mattino. Sentiamo cosa è successo ad Alessandro Ceci. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci racconti la sua storia? Sì, io ho viaggiato con... vivo a Londra, ho viaggiato con Alitalia per raggiungere Roma, passare 2 giorni a Roma a trovare i miei parenti, poi 5 giorni all'isola di Ponza sulla costa laziale e poi altri 2 giorni a Roma. Sono partito il 25 luglio a seguito di un volo cancellato, sarebbe stato il 24 luglio, ma cancellato il volo 25, sorvoliamo. E, arrivo a Roma e dopo un'ora di attesa del bagaglio il mio mancava. Ho fatto la solita trafila, la denuncia. E questo era il 25 luglio? 25 luglio. Sì, sì. A oggi e cosa sappiamo di questi bagagli? Ad oggi sono passati 18 giorni, io ancora non ho il bagaglio. Sappiamo che è a Roma, anzi precisamente ieri ho saputo che è a Latina e mi sarà consegnato nei prossimi giorni. Questa risposta ce l'ho praticamente ogni giorno da 18 giorni. Dopo continue sollecitazioni, telefonate e perdite di tempo. Avvocato Carmeo Calì, lei è responsabile trasporti della Conf Consumatori e rappresentante nel Comitato di Tutela dei Diritti del Passeggero presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile. Cosa si può fare in casi come questi? Sono troppe le storie che ogni giorno si accavallano con questioni simili. Anzi, molto spesso nemmeno le si denuncia, si è pervasi dalla rassegnazione. Sì, purtroppo c'è questo. Comunque il passeggero, in base alla Convenzione di Montreal, ha diritto a un indennizzo in seguito allo smarrimento del bagaglio. Quindi in questi casi vi sono delle scadenze ben precise che è utile osservare, perché spesso i vettori aerei poi fanno le eccezioni. Diciamo che bisogna aspettare 21 giorni dalla mancata riconsegna, perché fino al 21° giorno il bagaglio non si presume sparito, trascorso questo giorno. Però e dopo 21 giorni cosa si può fare? Conviene fare una raccomandata al vettore aereo con cui si chiede il risarcimento dei danni subiti, e in questo periodo, se per esempio si è in vacanza, è opportuno per esempio conservare gli scontrini delle spese che si rendono necessarie di prima necessità. E comunque cioè se deve riacquistare la maglietta o il col pigiama a tenere lo scontrino e poi? E poi si fa questa richiesta alla compagnia aerea con una raccomandata, elencando tutti i beni che erano contenuti nella valigia, le spese che si sono rese necessarie da affrontare, e quindi poi naturalmente se la compagnia aerea non risponde entro quello che può essere un congruo termine di 30 giorni, eventualmente ci si può rivolgere al giudice di pace per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche quello per esempio da vacanza rovinata in questo caso. Però a questo punto vorrei scomodare un Claudio Piga, professore presso il Dipartimento di Economia alla Loughborough University, di Economia del Turismo, per chiedergli innanzitutto buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Per chiedergli perché ormai, quando si viaggia in aereo, una volta era un po' il viaggio dei privilegiati quasi, il viaggio di chi poteva permetterselo, ormai ci si aspettano solo noie, mal di testa, ritardi, cancellazioni e, come ha sentito, addirittura lo smarrimento delle proprie cose. Cosa sta succedendo a questo abbassamento di qualità del viaggio aereo? A cosa è dovuto, secondo lei, a livello globale? Ma io non dipingerei un quadro così così apocalittico. Apocalittico. Insomma, è chiaro che questo è un periodo di picco, quindi la gente, il numero di viaggiatori è... No, ma succede anche d'inverno, professore, le assicuro, abbiamo moltissime segnalazioni anche in bassa stagione. Ma mi chiedo se sia un fatto anche, forse limitato al territorio nazionale, data lo stravolgimento che è avvenuto nel settore negli ultimi anno e mezzo. Io non credo che il settore in questo momento è ancora in fase di riassestamento. Sono in fase di ridefinizione le relazioni tra i vettori e gli aeroporti. È chiaro che questo è centrale. Gli aeroporti hanno un determinato metodo di gestione, di organizzazione, sono in genere delle entità pubblico-private che devono fornire servizi alle compagnie aeree che sono delle società private. Questa relazione va gestita, va mantenuta, la relazione va migliorata, gli aeroporti devono fare degli investimenti per migliorare la qualità del servizio che offrono ai vettori, perché in genere in realtà se si perde il bagaglio la colpa non è necessariamente della compagnia aerea, ma non so, la responsabilità forse andrebbero un attimino divise, capite meglio come funziona il meccanismo. A me pare che questo sia uno delle possibili indizi è che in Italia il metodo della governance degli aeroporti è un attimino da ripensare. In genere questo meccanismo pubblico-privato ha creato notevoli problemi, ad esempio io so benissimo, conosco abbastanza bene il caso di Alghero che ha fatto vari milioni di euro di debiti, non so se la qualità del loro servizio sia così, ma è abbastanza buona, però hanno fatto una montagna di debiti. Solo continuano ad essere un aeroporto abbastanza piccolo, l'aeroporto di Gerona in Spagna. Tutti gli aeroporti in Spagna sono gestiti dal Ministero dei Trasporti, quindi sono perfettamente nazionalizzati. L'aeroporto di Gerona in 3 anni... Abbiamo 10 secondi, dica, cosa è successo? È passato da 600.000 a 6 milioni di passeggeri. Senza grandi disagi. E quindi anche un modello a cui guardare, grazie a Claudio Piga, professore presso il Dipartimento di Economia alla Loughborough University, grazie all'avvocato Carmeo Calì, responsabile dei trasporti della Consumatore, e grazie a Alessandro Ceci, naturalmente auguri per la restituzione del suo bagaglio. 58 minuti dopo le 8 si parlerà di Afghanistan, a 9 in punto la versione di Oscar, tra pochissimo ora il giornale radio, noi ci sentiamo domani mattina alle 7.15, un saluto da Irene Zerbini. Ci chiede un ascoltatore al 349 238 6666.